Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E buona domenica! Buona domenica a tutti! Come ogni domenica noi siamo qui puntuali con il nostro cagnolino che ci aveva una zecchina sulla zampa, si è mezzo zoppato. Allora, amici, rimanete con noi perché oggi parliamo di resilienza, parliamo con la dottoressa Mara Di Noia che avete già ascoltato domenica scorsa. Parliamo con Claudio Villa. Claudio Villa. Non il cantaviglia, non il cantante. Non il cantante, ma quello che si occupa di cavalli nel carcere di Bollate. Esatto. E alte... No, aspetta. Adesso, è adesso. Adesso abbiamo Edoardo Stoppa! Mamma mia, con questa sigla mi emoziono, mi fa diventare rosso. Ma cazzo, siamo dei tuoi fan, tu fai ma scusa, che non si vede. Una trasmissione che parla del mondo dalla prospettiva degli animali, il paladino della giustizia, cioè proprio ci sta con la sigla dei VIP qua. Mi fa molto piacere essere stato invitato a essere con voi per un po' di tempo assieme. Guarda Edoardo, tu non sai, a parte ti adoro per tutto quello che fai, il coraggio che hai, quanti lividi ha oggi? Quante fratture? Madonna, davvero, anche quello. Quante te ne sei prese? Da... Molto, molto veloce a scappare e a schivarle, però ogni tanto sai che c'è chi sostiene che siano gli animalisti quelli violenti e invece io vedo sempre più, e tu sei un testimone vivente, no, di questa cosa qua, che invece la violenza è molto più facile averla da chi odia gli animali. Assolutamente, queste cose sono pazzie, il mondo è strano, quindi puoi dire quello che vuole, però io sono dell'idea che non devi mai metterti a livello di chi maltratta gli animali, porta avanti degli atti così veramente osceni, quindi l'unico modo è cercare di parlarci, cercare di fargli ragionare, cercare di arrivare a scoprire la verità con grande pazienza. Sì, ci vuole a volte. No, perché devi sapere, qua ci sono i nazi ignoranti, no, che fanno sta roba qua, cioè che ti prendono, diversamente intelligenti. Sono diversamente intelligenti, hanno anche delle trasmissioni in radio di diversamente intelligenti e quindi voglio dire, sai, diamo fiato alle trombe. Scusami Edoardo, io volevo capire subito una cosa, ma com'è che ti sei trovato tu a Striscia nel filone degli animali? Come è nato? Ma ho sempre amato gli animali nel senso più lato, il pianeta, il mondo. Io prima ho lavorato per National Geographic, ho fatto tantissimi documentari in giro per il mondo e quindi questo mi ha fatto appassionare degli animali, del mondo e della cosa ovviamente che copre il mondo, che sono gli animali. Quindi quando ho avuto la possibilità, ho incontrato Antonio Ricci, ho avuto la possibilità di presentare un filmato, l'ho presentato sugli animali perché era l'argomento che mi piaceva e quindi ho pensato, se faccio qualcosa che mi piace magari riesco anche a unire, farlo bene, magari, no? Hai fatto bene. E poi unisco l'utile al dilettevole e quindi Antonio ha subito sposato la causa, perché comunque sono sempre molto sensibile a questo argomento, e quindi ha assolutamente detto proviamo, e adesso considera che il 50% delle segnalazioni che arrivano a Striscia riguardano gli animali. Senti Edoardo, ma ti è capitato finora di dire meno male che ho fatto quel servizio e che abbiamo mostrato quella cosa a Striscia, perché per fortuna quella realtà è cambiata? Cioè, a parte le denunce, mi capita tutti i giorni, perché è una strada difficilissima, perché ovviamente sei sempre esposto, sempre in mezzo alla strada, rischi, a volte ci sono dei servizi che faccio un bel spirone per iniziale, poi dici chissà dove va a parare, perché vai in dei quartieri, anche delle zone in cui veramente te la rischi. Però sono felicissimo, perché veramente penso che non è merito mio, ma sicuramente merito della grande visibilità di Striscia, che ha dato a questo argomento, che ha fatto cambiare. Cioè io sento le persone quando adesso scrivono le segnalazioni, le scrivono usando le mie parole, no? Che da un certo punto di vista vuol dire che ha cambiato un po' la mentalità, ha cambiato un po' il modo di vedere. Fai un esempio, cioè che vuol dire? Allora, quando guarda, fanno un allevatore qualche giorno fa mi ha proprio detto questa frase, fa: caspita, da quando hai iniziato a fare i servizi te, ti dico, stai mandando in rovina la gente, ha chiuso ieri un macello che faceva solo mucche, quella terra ha dovuto chiudere perché ha detto qua con tutte queste regole non si va più avanti, e per forza faceva una cosa illegale, macellava tutti gli animali che non dovrebbero essere macellati, che fra parenti vanno sulle tavole e vengono consumate, anche se vuoi vedere dal punto di vista anche non animalista, ma vengono consumate dalle persone, sono carni magari piene di antibiotici che fanno male, oltre alle sofferenze che ovviamente provocano gli animali. Quindi per fortuna che ha chiuso quel posto, ma come per le persone che ci lavoravano. Ma come con lo scandalo sulla carne di cavallo, che non c'è, che non c'è una regola e macellano cavalli che non si sa da dove arrivano e che cosa assolutamente hanno fatto. Considera che la carne di cavallo è ancora più giusta, che tu un cavallo che magari ha corso per te, è stato per te tutta la vita, tu puoi macellare cancellare senza problemi. Anche questa è una cosa assurda delle leggi italiane. No, no, ma noi sappiamo anche che siccome non c'è il controllo della filiera, credo il 70% dei cavalli siano cavalli provenienti, cavalli che non devono essere macellati, quindi provenienti probabilmente dalle corse, pieni di problemi. Senti, io c'ho una domandona da milioni di miliardi di miliardi di miliardi di euro. Ma dimmi. Come la dico proprio così come mi passa nel cervello, come cazzo fai? Cioè, io non so, io guarda, proprio ieri o stamattina, non mi ricordo, ho ricondiviso su Facebook una cosa allucinante fatta ai maialini, però io non sono riuscita né a vedere le immagini e nemmeno ad ascoltarti, perché io mi sento proprio male, cioè io a volte dico, non so come fai tu, veramente bisogna avere una forza, la forza proprio di credere, di riuscire, di cercare di cambiare queste situazioni. Spieghiamola questa cosa delle maialine, spieghiamola. Hai lanciato una petizione. Sì, ho lanciato una petizione che trovate su change.org, oppure se andate alla mia pagina pubblica, il mio Facebook è pubblico Edoardo Stoppa, trovate la petizione. Perché in Italia, purtroppo, è uno degli ultimi paesi d'Europa, questa è anche una cosa che ci dovrebbe fare un po' pensare, in cui è possibile effettuare la castrazione sui maialini senza anestesia. Cioè, questi maialini vengono castrati senza anestesia. Uh-huh. Ho parlato con l'allevatore, mi fa, ho tolto il dente, ho tolto il dolore. Cioè, si permette anche di ironizzare, sì, su certo, questa pratica. Sì, perché gli ignoranti fanno anche questo. Sì, vengono castrati senza anestesia, è una cosa pazzesca che deve cambiare, già cambiata nella maggior parte dei paesi d'Europa, deve cambiare anche in Italia. Quindi, se mi permettete, io invito veramente chiunque ci stia sentendo a firmare questa petizione, andate a leggere, veramente una cosa assurda, la trovate sul mio Facebook Edoardo Stoppa. Quindi Facebook Edoardo Stoppa per firmare la petizione. Hai già raccolto quante firme in pochi giorni? Ma guarda, la petizione l'abbiamo fatta uscire con change.org 2 giorni fa e ha raggiunto 130.000 firme adesso. Quindi vuol dire che ci sono, per fortuna, e questa è la forza che abbiamo noi in Italia, tantissime persone che capiscono quello che facciamo, ci credono e vogliono, se non cambia qualcosa. Senti Edoardo, a parte siamo felicissimi, grazie, qualunque altra volta tu vuoi chiacchierare con noi in radio per aiutarti a lanciare altre petizioni o qualunque cosa, siamo disponibili. Io dico sempre, l'unione fa la forza, noi adesso cercheremo anche di capire un po' come sono le varie leggi, la varia legislatura in base a seconda degli animali, delle tipologie di animali, di allevamenti, di cani, di cose, anche per capire la legge quanto potrebbe cambiare per migliorare le situazioni a tutti. Assolutamente. Intanto senti, un abbraccio grande. Un abbraccio anche a voi, continuate a parlare di questi argomenti, bravissimi. Anche te. Grazie, e magari ci vediamo, ci facciamo una gita in Tibet. Volentierissimo, quando volete. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio. Grazie. Ciao, a fra poco. Ciao. Traffico. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Io stavo cominciando con il mio cane. Intanto. Ecco, brava. Allora, vi abbiamo promesso che avremmo parlato di alimentazione vegana anche questa volta, un tema che ha appassionato la nostra Rosita mentre si sbaciucca la sua cagnolina Euphoria. Quindi abbiamo detto che l'altra volta abbiamo parlato delle proteine complesse, no? Abbiamo spiegato cose, che scientificamente quello che dicono gli altri non si capisce da quale fonte scientifica, da quale fonte la scientifica? Prendono. No, è scientifico che la proteina giusta è soltanto proviene dalla carne. Abbiamo una nutrizionista in studio che ci dice che non è così. Non so, vogliamo fare un esempio di ricetta vegana per un cane? Allora, parto dalla mia, come sempre, dalla mia esperienza familiare. Allora, potremmo, come così vi ho detto altre volte, i legumi, i cani, magari occorre sempre fare dei cambiamenti alimentari per gradi, graduali, così come per le persone. Okay. Quindi valutare di aggiungere la crocchetta di ceci o un altro tipo di alimento come la fibra, che non tutti i cani digeriscono nello stesso modo, poco per volta nel giro di anche un paio di settimane. Due settimane. Vogliamo passare, bisogna vedere il cane in che stato di salute si trova, perché io preferirei parlare di animale sano. Per quanto riguarda le patologie, poi ogni curante deve valutare in base allo stato di salute, anche se, come dicevo in un'altra occasione, abbiamo un ragionevole così sentore che anche alcune patologie possano risentire in modo positivo di un'alimentazione naturale vegetale. Io aggiungo naturale perché per me naturale vuol dire utilizzare ingredienti semplici, con 7 categorie di alimenti, che sono principalmente i cereali integrali molto ben cotti, i legumi, la frutta e la verdura di stagione, condimenti di buona qualità così come per l'uomo, io parlo per l'animale. Indistintamente, certo. Sale marino integrale per la famiglia, che non metto per quanto riguarda sale i bambini. No. Abbiamo il sale migliore del mondo. Qual è? Il Mediterraneo. Ah sì, eh? Sì. Sale integrale mediterraneo. Sì, che è semplicemente un pochino integrale. Più grigino rispetto al sale bianco, che viene sbiancato, deiodato e poi iodato nuovamente, sì, perché beh, chissà beh, come perché mai. Sì, perché sono dei fenomeni. Quindi con 30, credo, centesimi in più si può comprare un chilo di sale integrale che ha delle... È così, okay, come fantastico. La natura l'ha fatto. E poi ci sono degli alimenti fermentati che le tradizioni asiatiche vegetariane strette, diciamo così, hanno studiato per 8-9 secoli almeno, che non solo sono utili nel vegetariano stretto, nel vegano, ma sono utili anche nei nostri cani. Uh-huh. E mi riferisco ad esempio al miso, che è una sorta di probiotico naturale e quindi ci serve per integrare non solo le vitamine del gruppo B, ma per ricostituire in alcune situazioni proprio la flora microbica intestinale. Questo può essere utile conoscerlo. Ci sono anche altri alimenti fermentati, come ad esempio il tempeh, quello che ti dicevo al telefono. Sì. Fermentato di soia vuol dire un cibo che è predigerito e quindi presumibilmente sarà più facile da digerire anche dai nostri cani. Anche il tofu è un buon alimento, anche se non è fermentato. L'unica accortezza che dobbiamo avere è considerare che in alcuni cani, soprattutto quelli a cute rosa e pelo bianco come la mia, potrebbe dare, in letteratura scientifica ci sono delle reazioni di ipersensibilità cutanea. Questo non capita in tutti i cani e magari non in tutti i cani acute rosa. Quindi è un'alimentazione, uno dice ma mangiano solo questa roba qui? Sì, combinando questi queste sette beh, categorie solo, c'è un sacco di roba, viene fuori senti, forse mi sono perso qualcosa, vegetali come che so legumi spinaci. L'ho detto e scusa le verdure. No, ha detto verdure, frutta e verdure di stagione. Non me lo sono segnato io, che sto prendendo appunti. Esatto, nel frattempo. Io invece ero attentissima. L'unica cosa invece, non parli di frutta secca. No, semi e frutta secca assolutamente. Per il cane sì, per noi sì. No, ma anche per il cane, una granella tritata di mandorle, una granella di nocciola, a parte le ipersensibilità individuali, non hanno nessun tipo di controindicazione. Senti Mara, però tu ci raccontavi fuori, nelle nostre chiacchiere ormai siamo entrate in confidenza, la storia appunto del cane, perché la cosa che ti dicono adesso, già che appena vogliono attaccarci, dicono ma come, voi dite che noi uomini abbiamo l'intestino lungo e non i canini, quindi non è vero che siamo carnivori o onnivori, però il cane è carnivoro, non è vero, cioè non è del tutto vero. Non è del diciamo, non è per tutti così, per molti colleghi, e anch'io mi ritengo tra questi, il cane è un onnivoro a tendenza carnivora. Perché questo, tu hai detto che il carnivoro vero è il felino. È il felino. Ma io mi spingo oltre perché sono audace e anche la mia gatta mangia così. Quindi, figurati. Molto audace. Quindi, sei molto, ma sono preparata, nel certo. Senso che sono responsabile di ciò che dico. No, certo, certo. E nel mio libro le ricette sono anche per Kiki, che è la mia gatta tricolore. Sì, perché voglio ricordare, no, che per Mara Di Noia è fondamentale cucinare perché ha una famiglia, e lei dice ma tanto che devo cucinare per la mia famiglia, io cucino anche per i miei animali, che quindi sono che sono con delle famiglia. Piccole poi variazioni di quello che gli vai a mettere nella ciotola, tu hai cucinato e cucinato per tutti. Questa secondo me è la bellezza dell'atto d'amore della cucina. Cioè per me cucinare è un atto, è di un amore. Atto d'amore. Quindi i miei animali, non, se anche gli dovesse mancare un aminoacido essenziale, poniamo che non è così, ma vuoi mettere l'amore, cioè l'amore secondo me supplisce. L'ingrediente segreto. Sì, l'ingrediente segreto secondo me è, per chi decide di farlo in famiglia, uomo o donna che sia, ritornare a cucinare. Ma ascolta, tu allora appunto dicevi prima del cane che, a differenza del felino... È un onnivoro a tendenza carnivora. Perché tu ci hai raccontato la storia di quando nasce l'uomo, sì, perché... e il cane, un piccolo riassunto lo vogliamo fare per capire meglio? Sì, certo, allora io poi so, essendo cinofilo delle cose, magari Mara ne aggiunge delle altre, però il cane nasce come un nostro spazzino, cioè qualcuno che si avvicina ai nostri accampamenti e si ciba di rifiuti, e naturalmente i rifiuti che circolavano all'epoca non erano soltanto a base carne, voglio dire anche chi sposa la teoria dei cacciatori raccoglitori, che i cacciatori raccoglitori si nutrivano soltanto per un 15% di carne, tutto certo. Il resto vegetali, e quindi naturalmente il cane spazzolava un po' tutto. Quindi nascendo come spazzino non è più un carnivoro assoluto, stretto, no? Certo, è un'immagine, come dicevo, è un'immagine idealizzata di quello che, di quella che era sia la nostra vita 12.000 anni fa, sia quella che era la vita del cane. Noi abbiamo delle immagini. che non corrispondono alla realtà che sono quelle che assoluta. Ci hanno indotto, forse sono immagini indotte, forse esattamente, anche diciamo ci inducono anche in errore, certo. Quindi uscire un attimo, e questo è uno dei miei maestri che tu conosci bene, me l'ha insegnato, bisogna uscire dagli schemi. Aldo La Spina. Aldo, salutiamo. Ciao Aldo, ciao anche che... Maura, che le abbiamo chiesto, la veterinaria, che le abbiamo chiesto mille volte di fare una chiacchiera con Maura, noi devi farti intervistare, sulla medicina, io ho discusso tanto con Aldo dell'argomento omeopatica. Alla fine insomma abbiamo trovato un punto di vista comune soprattutto sull'amore, quindi non si può sbagliare se c'è la conoscenza e se c'è l'amore, quindi queste due cose insieme ci guidano. La conoscenza dell'alimento vegetale unita all'amore per i nostri cani, per i nostri animali, quello che per un po' di anni forse abbiamo dimenticato delegando all'industria. Ci sono delle industrie mangimistiche ottime come ce ne sono di pessime, sì. Ormai sappiamo che alcune di queste pessime hanno degli stabulari dove vengono testati questi mangimi, sì. Quindi per me è inaccettabile continuare a comprare dei mangimi che sono stati testati sul povero animale sfigato perché sta in uno stabulario, cioè lo trovo inconcepibile. Le persone queste cose non le sanno ancora, sì. E quindi magari possono scegliere se vengono a conoscenza di sì, alcuni fatti. Sì. Quindi voi che preferite ancora per il momento dare ai cani alimentazione di tipo industriale, vi trovate a un certo punto, no, comodi con questa cosa qua, quantomeno scegliete quelle marche che non testano sugli animali. Ma la domanda è, come si fa a sapere qual è la marca? Adesso noi non so se possiamo parlare di marche. Le marche dovrebbero qui, avere un marchio che è cruelty free. Ah, ecco. E queste liste sono consultabili, sono aggiornate giorno per giorno, quindi quella che io magari ho consultato ieri, oggi non è. Per ma cui tu ce l'hai sul tuo sito? No, la lista delle marche non ce l'ho sul mio sito, però si può reperire, ad esempio sul sito PETA. Quindi PETA. Andando sul anche sito su PETA, sul LAV, OIPA. Sì. Sì, si può recuperare. Senti, 15, scusa, senti come parlo, io sto straparlando, no? Perché sono qui che sto pensando a tutti i piatti, alle crocchette. Ti racconto un pranzo tipo? Sì, però volevo dirti, ma te va per esempio di darci una ricettina veloce, così, ogni domenica? Sì, ce la passi, che vale sia per noi che per il cane, cioè tu ci dai una ricetta, la posso mangiare io, la posso far mangiare come il titolo del mio libro, ricette per la mia famiglia e altri animali. No, ma infatti trovo. Allora questa è uno dei punti secondo me più importanti, no, del messaggio di Mara, cioè il fatto che la condivisione del pasto sia qualcosa che ti lega maggiormente al cane, che è il no? gesto d'amore più antico con i nostri cani, cioè dargli un pezzo di pane, dargli una cosa, io in questa immagine che ho, perché anche io ne ho, è il gesto d'amore. È vero. Quindi il fatto che tu cucini e stai cucinando, quindi non prendi qualcosa, glielo metti nella ciotola e glielo schiaffi lì, il cane percepisce che tu in quel momento stai facendo questo, stai preparando il pasto anche per lui, e questo rinforza il legame. Assolutamente. Favoloso. Ma se poi pensate, io sono cresciuta, oggi che non credo nelle famiglie si usi più, quando io ero piccola il rito dello stare a tavola tutti assieme era il momento più importante della giornata, dove la famiglia si radunava, non solo noi dovevamo fare il segno della croce prima di mangiare per ringraziare la possibilità di avere qualcosa da mangiare, e in più se ci volevamo alzare noi figli dovevamo chiedere permesso a mio padre, che io adorerei che tornassero questi riti che fanno parte veramente di una connessione, ci mette in connessione con le persone. Se invece benedici il cibo prima di mangiare ti quasi sembri un alieno, no? Invece dovremmo tornare, se non altro, ad essere grati in quel momento, fermarci un secondo e dire beh grazie a chi ha fatto il cibo che è nel piatto. Sono d'accordo allora con te. Allora io d'ora in poi voglio riprendere questa abitudine. Mara, ci ha fatto un sacco piacere che grazie tu a voi. Hai passato questa grazie alla dottoressa Mara Di Noia. Ti trovano su Google mettendo Mara Di Noia? Mi trovano su Google, sì, ormai, e su vegachef.it, che è il mio magazine online. Fantastico, grazie Mara. Ci sentiremo poi noi in separata sede. Ora un attimo di break e ci torniamo subito dopo. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pieno Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in Digital Radio. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto. Tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. No, che puntate meravigliose che abbiamo. Sì, sei contenta? Ma no, guarda, veramente stiamo a fare dei lavori. Ma sono contentissimo, guarda, ma era più interessante dell'altra. Abbiamo parlato. Questa cosa, no, di interessante, no? E a proposito, stiamo collegando, no, in queste ultime puntate, amore per gli animali significa anche più amore per gli esseri umani. Certo. Allora, abbiamo con noi in linea Claudio Villa, che è il presidente di ASOM, cioè l'associazione Salto Oltre il Muro. È un tecnico federale, si occupa di cavalli e di metodi empatici, un approccio empatico alla relazione col cavallo. Ebbene, lui questi cavalli li fa lavorare insieme ai detenuti del carcere di Bollate. Forse nel carcere, il carcere di Bollate, dimmi se mi sbaglio Claudio, è il primo carcere in Europa che ha dentro un maneggio? Esatto, difatti siamo l'unica realtà attualmente in tutta Europa con una scuderia che è all'interno delle mura, per cui è a vista di tutti i detenuti che partecipano ai corsi che faccio, ma i cavalli li vedono addirittura anche intorno al campo da calcio, negli spazi verdi. Bene, ma senti, ma intanto quanti cavalli avete? Attualmente ne abbiamo 20, però una potenzialità di 40 cavalli come struttura che abbiamo messo insieme in questi anni, io, i detenuti e un poliziotto, recuperando materiali vari, sempre in economia, fai da te, fai per tre. Ma tu aiuti, recuperi anche cavalli da situazioni, salvi cavalli, che ne so, che hanno fatto corse che poi devono essere macellati piuttosto che non, o che vengono abbandonati o no? Abbiamo di tutto, perché abbiamo cavalli sotto sequestro, dall'Ippica, cavalli che sono arrivati tramite Striscia la Notizia da Edoardo, da Catania, da Edo Stop, che è venuto due volte a vederci, col quale abbiamo parlato in inizio trasmissione con Edoardo oggi. Pensa alla fatalità. Esatto, salutatemi appena l'ho risentito. Va bene. E poi abbiamo altri cavalli fine carriera, fondamentalmente cavalli che sarebbero sicuramente finiti al macello. Il discorso, purtroppo, come sappiamo, in Italia il volontariato è sulle spalle dei singoli personaggi e le istituzioni sono spesso carenti nel supportarci, però è una realtà molto forte che funziona e cerchiamo di così riuscire a distribuire, a proporre in tutta Italia. Allora, io mi ha colpito una frase che ho letto sul tuo sito che dice: gli animali in carcere aiutano a riportare rispetto, dignità e soprattutto amore, ingrediente principale per la motivazione al cambiamento, di Suor Pauline Quinn. Esatto, è una suora americana che ci aveva contattato 5 anni fa in un modo molto carino. Lei si occupa da più di 30 anni di carceri, per cui ha portato sull'esperienza personale i cani nelle carceri americane, credo che ne segua 25 addirittura. Fantastica. Ed è venuta a trovarci perché siamo appunto a questa unicità, ed è tornata di recente per fare le foto dei nostri box per riproporre una cosa di questo tipo in America. Beh, innanzitutto tanto di cappello al direttore del carcere di Bollate e a tutte le istituzioni che hanno permesso questa cosa. Ma quali risultati ci sono? Cioè, l'idea è: visto che io mi devo occupare dei cavalli, me ne occupo bene con l'aiuto dei carcerati, che così sono più facilmente riabilitati, giusto? Sicuramente il problema fondamentale del recupero, noi amiamo dire diamo una seconda chance ai bipedi e quadrupedi, bipedi, perché hanno questa opportunità di stare con i cavalli dai quali non si sentono giudicati, ma bensì devono interagire nel rispetto e nell'autorevolezza. I cavalli, provocatoriamente dico sempre, i cavalli in carcere sono liberi, i cavalli nei maneggi sono in prigione. Perché passare la vita nel box è la cosa peggiore che si possa fare. Oh, guarda, ma guarda, fai bene a dirlo. Sì, perché infatti, sai, quando uno dice no, vabbè, ma anche questa cosa, allora con i cavalli, cos'è, non dobbiamo più andare a cavallo? No, certo che no, solo che ti devi relazionare al cavallo in modo diverso. E prendere un cavallo e metterlo in un box e tirarlo fuori soltanto per farlo girare non è qualcosa che gli si confà, insomma. Decisamente, i cavalli sono animali di branco, gregari, che hanno bisogno di relazionarsi tra di loro e di movimento. Capisci che il box è la cella, il corrispondente del detenuto, che se noi vogliamo riabilitarlo dobbiamo dare un'opportunità di aprire, interagire con gli altri, anche con gli esterni, in questo caso con i cavalli. No, che fra l'altro tu conosci Rachele, noi abbiamo parlato qualche domenica fa con Rachele Malavasi, si chiamava di cognome? Credo di sì. Malavasi. Che lei ci raccontava appunto anche del fatto che non è più necessario, per esempio, coi cavalli montare il cavallo con il ferro in bocca, con il famoso morso, perché quindi fa le classi di socializzazione fra cavalli, cioè li libera assieme, cosa che molte delle persone che si occupano di cavalli dicono no, non è impossibile, perché devo farli liberare assieme. Invece voi mettete assieme dei cavalli liberi? Esatto, noi abbiamo cavalli che arrivano da diverse realtà, alcuni anche i miei, di mia figlia, sono cavalli che hanno passato la vita nei maneggi, adesso vivono in gruppi di 10-12 alla volta, per cui riusciamo a farli interagire. Favolosa. Quello che dicevi, Rosita, di Rachele, la conosco da 2 anni, abbiamo fatto insieme quest'anno un convegno in Università Cattolica su relazioni millenarie uomo-cavallo. Peccato, perché è una bellissima, bravissima persona, siamo in sintonia su questi concetti. D'altro canto, nella storia si parla dell'imboccatura, ma inizialmente l'imboccatura non veniva usata, per cui certo, è un discorso millenario, per il punto di riuscire a recuperare un rispetto, una parte di tecnica equestre, perché esiste anche nell'equitazione classica l'utilizzo del cavallo senza imboccatura, solo che è stato perso in questi decenni con un'equitazione molto poco consapevole. Senti, c'è una storia particolare che ci puoi raccontare, vissuta da un carcerato? Intanto sono uomini, donne, solo uomini o... Dunque, diciamo che il carcere di Bollate aveva prevalentemente uomini, infatti sono circa 1000 uomini, poi sono arrivati 4-5 anni fa anche le donne, un centinaio. Se si fa fatica a mettere insieme i due personaggi, ma fondamentalmente per un discorso organizzativo interno, perché quando sono i detenuti c'è la presenza di un assistente per gli uomini maschi, dovrebbe esserci un assistente femminile per le donne, però purtroppo spesso queste cose non si riescono a mettere insieme. Ma c'è un aneddoto bello che hai vissuto, immagino che vivrai tante situazioni, no? Dove si instaurano delle relazioni particolari fra l'uomo e il cavallo. Te ne viene una? Uno molto forte, di una cavalla, una trottatrice, che è arrivata qua perché aveva perso la vista, per cui doveva aver lavorato nell'ippica, me l'hanno portata, la proprietà ha voluto lasciarla a noi per fiducia, e c'era un ragazzo molto problematico che era arrivato anche a un tentato suicidio. Wow. E mi ricordo proprio che li ho abbinati insieme dicendogli: non farmi scherzi Paolo, dammi una mano, occupati tu di Nina perché io non riesco. Bravo. E si è instaurato un rapporto naturale senza interferenze, dove lui ha recuperato sicuramente molto delle sue disavventure, anche questa relazione era molto bella, affascinante. Sicuramente è stato aiutato, abbiamo alzato le probabilità di una vita, no? Esatto, sono molto molto molto commoventi. Senti Claudio, ma noi come possiamo aiutarvi? Cioè avete bisogno di aiuto, di visibilità, di sensibilizzazione, di fondi, di com'è che uno può tasto debole, delicato. È chiaro che purtroppo i cavalli mangiano tutti i giorni e la struttura l'abbiamo messa in funzione con materiale di recupero, ma i costi ci sono. E purtroppo sappiamo benissimo che, nonostante i tentativi e appoggi vari, ci vuole una continuità di progetti e di fondi economici, ma anche solo materiale, perché alla fine, se ci fossero aziende che mi dessero fieno e mangime, avrei risolto l'80% dei problemi. O comunque, come ben sai, donazioni che vengono da chiunque, anche specialmente da dal settore o comunque appassionati di cavalli, che non è poco. Perché tu sei in una struttura carceraria, ma tutta la parte tua dei cavalli te la devi gestire da solo tu con la tua associazione? Esatto, perché il carcere mette a disposizione gli spazi per dare l'opportunità ai detenuti che svolgono attività, però è chiaro che è sulle spalle di chi gestisce le cooperative, in questo caso l'associazione, e il carcere non interviene perché ovviamente non ha i mezzi economici per sopperire. Allora, diciamo ai produttori di mangimi di fieno, se hanno voglia di aiutare Claudio Villa al carcere di Bollate, dando ogni tot, che ne so, devolvendo in qualche modo. Anche, sì, basta. Io credo che andare sul sito, raccogliere informazioni per poi capire come, non so, fare formazione, aiutarvi, fare volontariato, non so, seguire, sì, fare donazioni, eccetera, credo che ci sia un pochino tutto. Ma non so se avete mai, con l'aiuto ovviamente di qualcuno lì del carcere, notato delle differenze tra, che so, il carcerato che con gli animali non ci sta e non ci lavora, e quelli invece che vi dà una mano in questo progetto. Difatti stanno cercando di portare avanti delle ricerche con un'antropologa della UN, con delle professoresse di veterinaria ma anche di psicologia, per fare una ricerca vera e propria nel vedere chi lavora con i cavalli e chi fa altre attività, i benefici nel tempo, per fare un riscontro statistico effettivo. Sì, fare uno studio, no, su questo, esatto. molto interessante. Stiamo cercando di portare avanti anche questo, perché oltretutto adesso stiamo diventando un centro di formazione negli interventi assistiti sugli animali, per cui stiamo sviluppando molto il lavoro con l'esterno, da creare appunto questo ponte tra l'interno detenuti e l'esterno, che chiaramente riabilita e rimette in condizione il detenuto per quando uscirà al fine pena, e allo stesso tempo interagire con i cavalli e le altre persone, per cui stiamo sviluppando tantissimo, siamo in una buona fase. No, davvero. Davvero grande. Però c'è tanto da lavorare. Spero che veniate a trovarmi anche voi, così vedete. Ah, sì, veniamo sicuramente. Guarda, adesso organizziamo una giornata. Grazie. Allora, ricapitolando, quindi abbiamo dei cavalli che i cui metodi sono stati rivisti, cioè non ci sono più i metodi tradizionali, ma ci sono la socializzazione, si lavora in branco, gentilezza e via dicendo, messi a contatto con i carcerati e le carceri di Bollate. Grazie. Grazie davvero tante a Claudio Villa, che è la persona con la quale abbiamo parlato, e anche il carcere di Bollate, che è il primo in Europa che ha accettato di vivere questa esperienza. Grazie Claudio, e chi volesse sapere di più deve andare sul tuo sito, che è cavalliincarcere.it. grazie Claudio, e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Grazie. E ora The Traffic. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Dico pubblicamente questa domenica, voglio dire che tanto che tu non mi chiedi se sono felice, con questo apro e chiudo. Ah, io? Dunque, non ti chiedo, ma sei felice? Sì. E boom, in radio me lo devi chiedere. Che barba, che noia. Poi Peter mi fa ridere perché mi mette il mio mito, la Mondaini, però io sono seria. Allora, meno male che sono resiliente. Allora, boom. Stiamo per dedicare i prossimi 10 minuti all'apprendimento di Rosita Celentano. Certo. Ma non soltanto questo, perché abbiamo parlato di resilienza qualche domenica fa negli animali, e allora noi ci siamo detti, ma perché non intervistare un esperto di resilienza in campo umano? E quindi abbiamo con noi al telefono Pietro Trabucchi, che è scrittore sportivo e professore di scienze motorie all'Università di Verona. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Pietro, sai, Angelo mi prende sempre in giro perché io faccio fatica a memorizzare il significato di resilienza. No, che ma non la prendo in giro. Dimmi se sbaglio, la resilienza è il contrario della debolezza? No. No. Sì, c'è qualcosa, sarebbe un 6, ecco. Scarso però, anche. Allora, Normalmente dico negli animali, no? Il contrario della resilienza è la fragilità. C'è un cane che non è resiliente, è fragile, non debole. Ah, scusate, vedi? Allora, facciamo parlare Pietro, scusami, facciamo parlare Pietro così che i nostri ascoltatori comprendano, riferiti a loro stessi prima di tutto, che cos'è la resilienza e poi vediamo come si può applicare ai cani. Pietro, che cos'è la resilienza? Cos'è la resilienza? Ma, allora, la mia definizione personale è che la resilienza sia una dimensione della motivazione, no? Per cui prendiamo due persone, A e B, uh-huh, e magari tutte e due hanno una motivazione molto simile, però mentre A ha la prima difficoltà, anche banale, uh-huh, si demotiva e si ferma e rinuncia all'obiettivo che ha, B è in grado di superare tutta una serie di problemi, di avversità, uh-huh, di difficoltà e andare avanti, no? Mi rendo conto che oggi il termine resilienza è utilizzato in tantissimi settori, sì, e ha un significato leggermente diverso, cioè è visto anche molto come capacità di adattamento, uh-huh, ma guardate che poi in qualche modo se noi portiamo come dire, questa definizione legata alla dimensione motivazionale ai termini estremi, alla fine quello che viene fuori è la capacità di una persona di adattarsi a situazioni che sono quindi, diverse e anche limite. Quindi c'è chi è più io non sono resiliente allora. Perché non sei motivata? Perché no, motivata sono motivata, ma non mi adatto facilmente ai cambiamenti, ho capito giusto? No, Pietro dice, la mia personale definizione di resilienza è una dimensione motivazionale, cioè tu puoi trovare davanti a te un ostacolo, ma se hai la motivazione giusta lo superi. Ah, ho capito sì, bene? Allora sì, sono resiliente. Credo che tutti in una certa misura siano resilienti, no? Il bello di questa capacità, che è una capacità che si può apprendere e sviluppare, no? Cioè, uh-huh, nel senso, e questo dipende molto dalla vita che si fa, dallo stile di vita, dalle esperienze, dalle figure significative che uno trova sul suo percorso. Senti, ci sono differenze secondo te tra resilienza e resistenza? Beh sì, nel senso che la resistenza è riferita di solito a una capacità di tipo fisico, no? Uh-huh. Infatti nella scienza dell'esercizio fisico si parla proprio di capacità condizionale, no? Uh-huh. Cioè legata la resistenza alla fatica, la resistenza, uh-huh, a uno sforzo. Invece la resilienza in fondo è una cosa più sfumata, è legata all'aspetto psicologico. Psichico. Sì, ed è una capacità cognitiva. Cioè cognitiva vuol dire legata come alle scelte profonde che noi facciamo, al senso, al significato che per noi hanno le cose. Ma perché a me sembra di ogni tanto crescendo, perché cresco anch'io, adesso però ho superato una soglia di 50 anni e decresco, perché invecchiando ci si riaccorcia. Mi viene adesso, per esempio, la parola resilienza la sento dappertutto, prima non si sapeva nemmeno che cosa fosse, cioè sembra sì, quasi... è vero, ma è reale, non è come il fenomeno delle donne che quando sono incinta poi notano di più le altre donne gravide, è proprio che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo l'uso di questo termine legato alla grande crisi che... ecco, vedi. Sì, perché che cosa succede in tempi di vacche grasse, chi se ne frega della resilienza, no? Cioè uno aveva altre risorse che erano per lo più esterne. Quando i tempi si fanno duri, la gente come dire, deve tirar fuori la resilienza. Infatti nei tempi duri, classicamente, nascono generazioni di persone che sono molto resilienti. Cioè, è chiaro, uh-huh, che c'è una differenza, per esempio, non so, tra una persona che è della generazione primo dopoguerra e magari la gioventù, spesso la gioventù di oggi dei paesi più industrializzati o ex tali. Come si dice, gli alberi più forti sono quelli dove è soffiato molto vento e nessun bravo marinaio viene fuori da acque tranquille, insomma. Esatto, esatto, perché la resilienza lì è, come dire, la devi tirare fuori, no? Invece sì, sei obbligato, c'è una selezione in ogni, sì, caso. Senti, tu hai scritto dei libri sulle applicazioni della resilienza nello sport, no? Perché tu sei un grande sportivo, sì, da quello che ho capito. Come la vedi la resilienza nello sport? Perché è così importante? Come fa un atleta a sviluppare resilienza? prima risposta sulla prima domanda, come si fa, cioè perché è così importante? Perché quello che sta venendo fuori negli ultimi anni è che uno dei fattori determinanti è proprio quello motivazionale per la prestazione, cioè nel senso che anche quando un atleta è molto dotato geneticamente, ha un fisico straordinario eccetera, quello ormai è un prerequisito in tante discipline, ma non basta per arrivare all'obiettivo. Cioè oggi un atleta d'élite in certe discipline affronta tutti i giorni carichi di lavoro che sono veramente impensabili, intensi. Tutta una serie si misura con una serie di difficoltà che vanno non solo dagli avversari, perché quelli, come dire, ci sono da contratto, no? Uno lo sa, ma dai rapporti interpersonali. Come fa uno a sviluppare questa? Abbiamo pare soltanto un minuto, ma come fa a sviluppare uno la resilienza nello sport? Basta fare sport o deve fare esercizi mentali? Non so, cosa deve fare? No, allora, ci sono, sicuramente il fatto, questo, come dire, è più una risposta sull'aspetto educativo. Se tu prendi dei giovani, dei ragazzini, li fai fare sport, questo li aiuterà a sviluppare. Okay. Cioè lo sport in sé è qualcosa che sviluppa resilienza praticamente. Tutto quello che richiede impegno, che mette a confronto con la realtà, ti fa raggiungere degli obiettivi, da un punto di vista motivazionale ti mette in gioco e sviluppa resilienza. Vedi? E allora adesso dobbiamo chiudere purtroppo Pietro, però qui viene il parallelo con i cani, perché è la stessa cosa per i cani, no? Laddove un cane vive soltanto d'affetto sul divano, non esce, non viene messo di fronte a difficoltà, obiettivi, viene tenuto sotto una campana di vetro, non sviluppa resilienza e diventerà un cane fragile. Allora grazie Pietro Trabucchi, grazie. Digitatelo su Google per leggere, per andare a vedere i libri che lui ha scritto a proposito di resilienza. E salutiamo tutti. Ciao da Angelo Maira, ciao da Rosita Pietro. Celentano. Alla prossima, scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. A presto, buona domenica.